Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Siamo ancora qui con la nostra trasmissione di Un Mondo Dentro i Balloon e oggi andiamo per antiquariato. No, non ci aggireremo per poltrone Chippendale o per un barocco bianco secretaire veneziano, no. Parliamo di fumetti, perché esiste davvero un mercato dell'antiquariato di fumetti che va alla ricerca di fumetti antichi e di fumetti di modernariato. E abbiamo trovato uno di questi angoli di antiquariato a Forlì con Ras Fumetti, è un'azienda che vende online e che ha un grande capannone pieno di ogni ben di Dio. E Morena ha incontrato il responsabile di Mraz Fumetti, Massimo Raggi. Perché? Perché abbiamo cercato di capire, parlando del Pioniere in particolare, più tardi allargando il discorso agli altri giornalini, quanto sia difficile trovare questo materiale che sembra andato perduto. E invece scopriremo con Massimo Raggi che c'è un mercato florido, ci sono collezionisti, insomma è una realtà che viene tenuta ben viva in segrete stanze. Ma ascoltiamo appunto questa intervista di Morena Moretti con Massimo Raggi. Super GT non è veloce quanto Mimi, braccio di ferro mangiò, spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò, e Nembo Kid ha ripulito la città. Lettera X, qual è il segreto di Asterix, Motorix, Asterix? Stop, dove vai, cosa fai, con il barone rosso prima o poi ti batterà, niente paura. Massimo Raggi che recupera e vende fumetti di antiquariato. Sì. L'antiquariato, cosa si intende fumetto di antiquariato? L'antiquariato si intende un fumetto, diciamo, da una certa data in giù, 1970 circa, andando indietro. Quindi 70 sono i più recenti, poi si scende verso... Sì, dopodiché diventa modernariato, diciamo, le cose più recenti, gli ultimi 20 anni, diciamo, fanno parte magari del modernariato del fumetto, ecco. L'antiquariato... cose più vecchie, diciamo, modernariato, quello che ancora esce. Ma fino a che epoca riesce ad arrivare? Tipo, io ho visto che tu hai sul tuo, diciamo, sito... Diciamo dall'inizio del fumetto, perché il fumetto nasce negli anni 30, arriva negli anni 30 in Italia, e quindi da quel periodo lì in poi... Si trova ancora? Sì. Ah, ok. E sì. Collezionisti ce ne sono molti del... Ce ne sono ancora, sono piuttosto datati, la media, diciamo, età è un po' altina. Oltre 60. Perché, diciamo, adesso stiamo anche un po' più bassi, facciamo anche 50, però, insomma, diciamo, di giovani se ne vedono un pochino, sì. Sì, non c'è poco ricambio, diciamo, generazionale. Diciamo, perché quelli che raccolgono il fumetto sono un po' quelli che lo hanno letto quando erano ragazzi e adesso vanno a ritrovare, sì, questo mondo perduto. Sì, per la stragrande maggioranza, diciamo, la molla che scatta è un po' quella, cioè di andare... a rivedere, a ricercare quello che magari da ragazzi, da giovani si era passato tra le mani, insomma, che uno aveva, gli aveva, insomma, quello che era, faceva parte della propria gioventù, della propria giovinezza, così. E poi invece per altri magari in parte minore può essere anche un vero e proprio studio sulla storia del fumetto, eccetera, per cui molti poi vanno a ricercare, diciamo, dalle origini a livello storico, ecco, proprio cosa. Senti, e come invece genere maschi più che femmine? Sì. Uomini più che donne, sì, vero? Sì, uomini più che donne, perché comunque il fumetto è sempre per lo più un genere un po' maschile, però anche donne, soprattutto magari nei generi un pochino più più soft che possono essere gli umoristi, no? Topolino, queste testate un pochino più... Quindi c'è anche un collezionismo di Topolino, perché Topolino effettivamente... Topolino poi effettivamente è stato il primo, poi effettivamente, non il primissimo, ma diciamo quasi uno dei primi. Però lo pubblicava già Mondadori tutta la parte negli Disney, anni 30 col fascismo. Tutta la parte Disney, sì, per cui sì, c'è anche un pubblico in parte femminile. Senti, veniamo al Pioniere. Sì. Allora, il Pioniere, quanti giornali illustrati si riescono a trovare, si trovano ancora? È un articolo che qui, almeno diciamo Emilia Romagna, perché magari in altre zone d'Italia forse no, è ancora rintracciabile. Si trova, sono diciamo tutti articoli, questi qui in formato giornale, che uscivano in formato giornale, testate che uscivano in formato giornale, che ancora si riescono a trovare tramite collezionisti, c'è chi li colleziona, quindi gente che magari vuol cedere, eccetera, però sì, ancora si riesce a, diciamo, è ancora una di quelle testate che aveva una buona tiratura, quindi ce n'è in giro. Diciamo, una collezione non è impossibile, anzi, diciamo, possibilissimo. Quindi sia come dispense che uscivano dentro l'unità, come sì, queste che io vedo qui, sì, ma anche proprio come giornale anche autonomo, come sì, che è più vecchio, però lo stesso si trova. Qualche titolo di fumetti degli anni 40? Beh, allora, diciamo che per quello che riguarda la parte principale, sicuramente tutta la parte Disney e tutta la parte dell'anteguerra, diciamo, su cui svolge un po', la fa un po' da padrona. Poi tutto quello che era il fumetto americano, con personaggi tipo l'Uomo Mascherato, Mandrake, Gordon, Cino e Franco, Radio Pattuglia, insomma una serie di personaggi che hanno, per l'epoca erano dei miti, diciamo, è stato, certo, quello un po' che... Poi, diciamo, di cose più nostrane, subito dopo guerra, beh, diciamo, Tex, che è del 48, le prime striscette di Tex che sono del 1948, e sicuramente insieme altri personaggi, diciamo, che a cui faceva concorrenza Tex, che potevano essere Capitan Mickey, il Grande Black, Piccolo Sceriffo, si trovano, eccetera, questi? Eccetera. Sì, si trovano. Quelli più rari quali sono, secondo te? Allora, cioè cercati, magari ricercati, ma più, allora, rari. Sicuramente ci sono fumetti rari che però magari non sono ricercati o sono poco ricercati, e ci sono fumetti, diciamo, meno rari che però sono più ricercati e quindi diventano rari. E no, quindi diventano più cari, diciamo. Ah, diventano più cari. Ecco, diventano più cari. Però di fumetti rari c'è tanto, diciamo, soprattutto nella parte degli anni 50, anni 40, nell'anteguerra, chiaramente quella è la parte dove chiaramente ci sono alcune testate, editori minori, dove hanno fatto proprio piccole apparizioni, eccetera, dove sì, ci sono... E quei fumetti che erano invece striscia orizzontale, ecco, vediamo, bellissimi, questo è Paperino. Queste sono le striscette. Alcuni mi dicevano che erano fatti così per un risparmio di carta, sì, erano i ritagli, tu la sai, sì, questa cosa? Sì, diciamo che erano, è chiaro che il prezzo che era contenuto, che era, queste sono le prime di Tex per capirci, che era 15 lire, poi è passato a 20 lire, eccetera, era proprio quello che magari i più si potevano permettere, perché poi su cifre più alte diventava un po'... Sì, sì, costavano un po', erano fatte da come dei ritagli, delle rotative, sì, cioè sì, dei ritagli di, sì, carta, utilizzavano per la gran parte, sì, per sì, al massimo tutto, in carenza di... Esatto. Beh, ce ne hai tanti di questi, sono proprio belli. Sì, sì. Questi che epoca sono, questo Tex qui? Allora, Tex inizia nel 48, 1948 le prime striscettine di Tex, quindi dal 48 in avanti... parte, diciamo, proprio così come riempitivo, fra l'altro il disegnatore di Tex, che era Galeppini, era, diciamo, concentrato su tutt'altro personaggio che si chiamava Occhio Cupo, che era una testata dell'audace importante, e Tex era, diciamo, un qualcosa di riempitivo che nel tempo perso lui faceva per, appunto, fare concorrenza a queste altre testate che erano appena nate, come Mickey, Black, il Piccolo Sceriffo, eccetera. E Tex ebbe subito un grande successo, Occhio Cupo fece 6 numeri e lo lasciarono perché poi non aveva più tempo per dedicarsi e così diciamo partì Anche perché un successo quello. strepitoso, poi Tex Sì, alla fine tutti sì, leggevano Tex. Invece l'ultimo personaggio, io non so in che anni nasce, cioè non so, Diabolik nasce un po' più tardi, sì. Sì, però Diabolik vabbè, che questi nasce due. nel 1962. Quindi già siamo lì a cavallo tra il modernariato e No, l'antiquariato moderno, è ancora è ancora antiquariato. antiquariato, diciamo. Gli anni 60 diciamo, è la parte diciamo, del collezionismo più collezionata, nel senso che più o meno molti collezionisti di quegli anni, quindi di anni, insomma, metà anni 50, inizio anni 60, hanno passato diciamo, quegli anni con i Tex, però non in questo formato, quelli che troviamo ancora Quell'altro, oggi in sì. edicola. Quindi Diabolik per quello Diabolik. che è la parte dei neri, per cui è sicuramente la parte più collezionata, è ancora quella più richiesta, È diciamo, più il settore ricercata. collezionista Poi così. Diabolik, devo Sì, dire, lo leggevano anche le ragazze beh, all'epoca. Diabolik Sì, è Tex no, ma Diabolik sì. capostipite del fumetto nero, per cui sì, Perfetto. assolutamente sì. Grazie Massimo Raggi. Prego. Super good. Super good. Super Ulp! Crash! Bam! Bang! Ulp! Sick! Splash! Ulp! Fumetti in TV! Fumetti in TV! Squash! Sub! Puff! Ulp! Snap! Sop! Scioff! Ulp! Sniff! Sniff! Ulp! Fumetti in TV! Fumetti in TV! Flash! Toc! Boom! Ulp! Pam! Fumetti in TV, fumetti in TV, ciuff, ciuff, tic tac, drink, smack, fumetti in TV, fumetti in TV. E dopo aver analizzato il mercato dell'antico fumetto, apriamo il discorso già più volte trattato della graphic novel, cioè del romanzo a fumetti. Parleremo delle prossime puntate di diversi autori di questo versante, ma fin da subito confrontiamoci su questa realtà. A cominciare dal fatto graphic novel è un inglesismo per dire in modo più apparentemente nuovo il vecchio concetto di fumetti. E a un pubblico più vasto, perde di qualità popolare perché si vende nelle librerie. Tutte tematiche che analizzeremo utilizzando un bel dibattito radiofonico che ha visto a confronto Luca Raffaelli, giornalista, saggista e sceneggiatore italiano, esperto di fumetti e anche di animazione. Poi Filippo Scozzari, fumettista, ricordate Cannibale Frigidaire, illustratore e scrittore italiano, l'ultimo fumetto prima pagare e poi ricordare, Memorie dell'arte bimba, fanciulli pazzi, tutta la storia, edito da Fandango nel 2017, e infine con Davide Toffolo, che è fumettista, cantante, nonché chitarrista italiano del gruppo 3 Allegri Ragazzi Morti, ultima graphic novel di sua composizione, L'inverno Italia, edito Coconino Press 2017. Sentiremo che Raffaelli e Toffolo sono entusiasti del concetto di graphic novel, mentre molto più critico e severo Filippo Scozzari. Ma cominciamo con Luca Raffaelli. Graphic novel può essere francamente abbastanza antipatico perché il fumetto è sempre fumetto anche quando raggiunge la libreria. Però se da una parte non c'è dubbio che un certo fumetto popolare è in crisi, anche perché è in crisi l'edicola, il romanzo a fumetti ha permesso al fumetto di trovare se stesso a 360 gradi. La rivoluzione che ha portato in Italia Filippo Scozzeri con Andrea Pazienza e tutti gli altri di Cannibale, poi in effetti sta dando i frutti proprio adesso con il libro a fumetti. Ed è grazie alla nuova collocazione del fumetto in libreria se il fumetto si permette di fare non solo politica, di infrangere le regole, di essere di essere autoprodotto, di fare fumetto assolutamente nuovo, tutto questo si deve all'ingresso del fumetto in libreria. Quindi, insomma, se da una parte c'è questo imborghesimento, dall'altra parte non è assolutamente vero che ci sia. E poi i dati di vendita del fumetto in libreria sono talmente sconcertanti quasi adesso rispetto a quelli di qualche anno fa. Il fatto che alcuni fumetti, a parte Zero Calcare che è veramente campione assoluto, ma altri fumetti vendono 20.000 quando qualche tempo fa vendere 2.000 faceva brindare un editore. Luca Raffaelli, tentiamo una radiografia del pubblico di oggi. Direi che è un pubblico non giovanissimo, è il pubblico delle librerie, è un pubblico interessato, in qualche maniera impegnato. È un pubblico sicuramente meno popolare di quello delle edicole. Io credo veramente che l'allargamento del mondo del fumetto al mercato delle librerie sta dando dei frutti straordinari e che ci siano dei libri a fumetti bellissimi, e sono fumetti bellissimi anche per le novità che propongono, anche per il tipo di immediatezza. Io non vedo tantissimi libri di a fumetti che cercano di rivolgersi a un pubblico preciso, e anche il formato del romanzo a fumetti non ha una sua regola, no? Il grande Chris Ware, meraviglioso fumettista di Chicago, ha fatto proprio una scatola a fumetti giocando sulla possibilità che il romanzo a fumetti cambi il proprio formato. Non c'è più una regola, si possono fare fumetti orizzontali e, se uno vuole, anche tondi. Tutto questo naturalmente non è importante per la stranezza in sé, ma per la possibilità, per la libertà che lascia a certi autori di poter comunicare con i lettori. E questa libertà, nonostante ovviamente ci siano, come accade quando c'è un allargamento di mercato e quindi ci sono tanti libri, tante produzioni, ci sono tante cose brutte, insufficienti, però io francamente vedo delle meraviglie intorno a me, e questo proprio lo esprimo con tutta la chiarezza possibile. Ecco, il fumetto è bellissimo. Ben diverso parere da Luca Raffaelli e l'opinione di Filippo Scozzeri, fumettista, illustratore e scrittore italiano. Intanto ti bozzo al volo l'aggettivo controculturale, perché è un contro natura. Il fumetto, per come veniva inteso fino al momento in cui uscì Frigidaire e prima ancora Cannibale, era il fumetto stupidissimo alla Zagora e alla Tex, che tuttora troviamo in edicola, ma non era un controculturale, era un fare cultura, meglio ancora. La cultura controculturale, nel senso che probabilmente, non come lo intendi tu, era andare contro la cultura borghesissima che si era instaurata nel fumetto fino al nostro arrivo. Detto questo, è vero che il fumetto rimane fumetto anche nella forma mercantile del graphic novel, però con graphic novel ormai si intende il fumetto di lungo respiro, di molte pagine, e spesso e volentieri dedito all'intorcinamento dell'animo umano e compagnia bella. In questo senso la graphic novel ha introdotto un elemento che prima mancava, la noia totale. Nel lettore la graphic novel, specialmente quella non condotta dai maestri della matita o del pensiero, induce noia. Filippo Scozzari, voi immaginavate un pubblico particolare quando facevate il Cannibale, Frigidaire, oppure diciamo era un pubblico comunque generico come quello che invece ha descritto Davide Toffolo per il presente? Che tipo di differenza c'era nel fare fumetto negli anni 70 e adesso, secondo lei? Secondo me non c'è nessuna differenza, se non il fatto che adesso la qualità culturale dei singoli autori si è molto abbassata. Non parlo delle punte estreme, parlo del generone, detto alla romana, che infesta le case editrici. Noi non, probabilmente l'errore che commettemmo, se l'abbiamo mai commesso, di non interrogarci mai sul tipo di pubblico che avevamo. Non ci siamo mai interrogati del a chi parliamo. Il nostro interesse principale era quello di pubblicare e mettere col megafono, più potente era meglio era, quello che ci urgeva dentro. Vivevamo in un'Italia merdosa quanto quella di adesso, ma in alcune frange un pochino più combattiva di quanto non sia, dal punto di vista culturale, di quanto non sia ora. Per cui ci sentivamo parte di una sorta di tribù, detta ancora una volta in termini culturali, che era abilitata, che si dava la patente da sola e quindi si autoabilitava a esprimere quello che ci urgeva dentro. Ultimo parere è quello di Davide Toffolo, fumettista, cantante e chitarrista italiano del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti. La graphic novel ha dato la possibilità di far capire una cosa, che il fumetto è un linguaggio e che con la graphic novel questo linguaggio ha trovato effettivamente nuove forme, nuova possibilità di mettersi in gioco. E è vero che è una categoria di mercato. È anche vero che il fumetto è sempre stato forma, nel senso in America si chiama comic book e ha una forma sua specifica, in Francia è un libro cartonato grande di 70 e passa pagine, che è la forma, diciamo, di Asterix, per chi ha visto poco il fumetto francese, e questa forma nuova che si chiama graphic novel è la prima volta che esiste una forma unica che si può fare da Pordenone, come lo faccio io, fino a New York ed essere venduto contemporaneamente nelle librerie di Pordenone, Roma, Milano e New York. Perciò è la prima volta che esiste una forma globalizzata che il fumetto, cioè come linguaggio, assume una forma globalizzata. Ecco, ma ad una forma globalizzata, secondo Davide Toffolo, corrisponde un pubblico globale, globalizzato anch'esso, nel bene e nel male, intendo. Questa cosa dell'imborghesimento è interessante. Dall'altra parte il mondo che viviamo in questo momento è molto complesso e la parola borghese è difficilissima da ricollocare con i connotati che aveva prima della visione precisa di questo mondo qua. Perciò è vero, forse siamo diventati un po' più fighetti, però allo stesso tempo le letture che un lettore può incontrare con il fumetto cosiddetto graphic novel in questo momento qui non hanno paragoni, non hanno precedenti, perciò è una enorme novità. Gli amici di mio padre, per esempio, dei miei genitori, che sanno che io faccio fumetto, in particolare vengono da me ogni tanto e mi dicono: guarda, va bene tutto, fai quello che vuoi, ma non toccare Tex. Il che vuol dire che in qualche modo sanno che quello che sto facendo io e che fanno altri autori è quello di provare a cambiare il linguaggio, a provare a mettere cose nuove dentro il fumetto, mentre in qualche modo il fumetto cosiddetto popolare è sempre stato anche il sostenitore o il contenitore di una nostalgia, che è quella del bambino che eri, mentre questo fumetto nuovo non racconta del bambino che eri. Ok, ci sono tante cose sull'auto racconto adolescenziale, ce ne sono tante, però io sono con Raffaelli. Se tu vai in libreria adesso, vedi una libreria dove ci sono degli autori incredibili che spesso arrivano da tantissime parti del mondo. Allora, quando io raccontavo, dicevo prima della cosa della globalizzazione, è che in questo momento c'è una possibilità di un mercato che vede a più, che dà la possibilità di spostare le merci, perché alla fine di quello stiamo parlando, no? E la merce fumetto, la merce graphic novel, diciamo così, è bellissima in questo momento qua, sono d'accordo con Raffaelli. La quantità, è un momento particolare, l'accesso all'arte, la quantità di possibilità degli umani, di accesso degli umani almeno occidentali, all'accesso all'arte non è mai stato così alto nella storia dell'umanità. Cioè, nel senso, ci sono tantissimi autori nuovi, tantissimi editori nuovi, e credo che questa cosa qui stia dando dei risultati, perché se tu vai in libreria non puoi fare a meno che dire: ok, ci sono dei capolavori, ci sono delle cose bellissime. Thank you.